Allora, domani secondo appuntamento nella città di Roma con Dan Leroux. La pronuncia per me è sempre complicata. Comunque, questa iniziativa, insomma, graffiti e quant'altro contro il fascismo, se ti va, insomma, di raccontarci un po' che succede domani. Allora, domani è c'è Dalla Ru che è il terzo anno, che insomma replichiamo questa iniziativa contro Casa Pound e contro ogni fascismo. È un evento hip hop rap in cui gli artisti, i writer, i rapper diciamo si esprimono all'interno di questo contesto liberamente, ma diciamo con un occhio attento rispetto a tematiche sociali, di lotta, ed è un po' quello che riflette adesso diciamo questo momento in cui i conflitti sono presenti nella nostra società. Raccontaci un po', insomma, partirà domani mattina alle 10, dove e sì, cosa succederà? Allora, parte alle 10 a Piazza Pino Pascali, non è molto conosciuto con questo nome, però in realtà è il posto dove si è sempre fatta negli anni scorsi. È un piazzale all'incrocio tra la Palmiro Togliatti e la Palestina, e vicino al Quarticciolo, Tor Sapienza, insomma, quella zona lì. E da lì tutta la giornata ci saranno i graffiti, c'è un muro enorme che noi dedichiamo ai graffiti con un muro libero, cioè vuol dire che chiunque vuole venire a esprimersi con la propria arte lì può farlo. E siamo lì diciamo per tutta la giornata, e poi la sera dalle 10:30 abbiamo organizzato un concerto con un sacco di artisti che hanno dato gratuitamente la loro disponibilità a suonare. Ci sono vari nomi di rapper diciamo che sono conosciuti nella scena romana, e il concerto è alla SNIA, inizia alle 10:30. Sicuramente insomma una buona giornata per ritornare nelle strade della città, di riappropriarsi anche soprattutto delle strade della città, che non sempre avviene, tramite anche insomma l'arte, la cultura, comunque i graffiti, e per una giornata insomma lo ricordiamo comunque antifascista, anche insomma sì. In visione della giornata del 2 giugno, che è una giornata comunque antimilitarista, che di fascista c'ha molto, per cui non so se ti va di dirci delle altre cose, se no noi ricordiamo l'appuntamento domani mattina alle 10 all'incrocio tra la Palmiro Togliatti e la Prenestina, e poi a partire dalle 10 di mattina invece dalle 10 di sera al centro sociale ex SNIA Viscosa. Hai detto tutto, grazie. Perfetto, grazie, noi ti ringraziamo, ci vediamo domani.